Chiusa della prima giornata del Decameron. Parte prima. Giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Renzo Clerico. Il Decameron. Parte prima. Giornata prima. Di Giovanni Boccaccio. Chiusa della prima giornata. Già era il sole inchinato al vespro e in gran parte il caldo diminuito, quando le novelle delle giovani donne dei tre giovani si trovarono a esser finite, per la qual cosa la loro reina piacevolmente disse: «Omai, care compagne, niuna cosa resta più a fare al mio reggimento per la presente giornata, se non darvi reina nuova, la quale di quella che è a venire, secondo il suo giudizio, la sua vita e la nostra ad onesto diletto disponga. E quantunque il dì paia di qui alla notte durare, perciò che chi alquanto non prende di tempo avanti non pare che ben si possa provvedere per l'avvenire, e da ciò che quello che la reina nuova delibererà esser per domattino opportuno si possa preparare, a questa ora giudico doversi le seguenti giornate incominciare. E perciò, a reverenza di colui a cui tutte le cose vivono e consolazione di noi, per questa seconda giornata Filomena, discretissima giovane, reina guiderà il nostro regno». E così detto, in piè levatasi e trattasi la ghirlanda dell'alloro, a lei reverente la mise, la quale essa prima e dappresso tutte l'altre e di giovani similmente salutaron come reina ed alla sua signoria piacevolmente soffersero. Filomena, alquanto per vergogna arrossata, veggendosi coronata del regno e ricordandosi delle parole poco avanti dette da Pampinea, a ciò che Milensa non paresse, ripreso l'ardire, primieramente gli uffici dati da Pampinea riconfermò e dispose quello che per la seguente mattina e per la futura cena farsi dovesse, quivi dimorando dove erano. Ed appresso così cominciò a parlare: «Carissime compagne, quantunque Pampinea, per sua cortesia più che per mia vertù, m'abbia di voi tutte fatta reina, non sono io perciò disposta nella forma del nostro vivere a dover solamente il mio giudizio seguire, ma col mio il vostro insieme. E da ciò che quello che a me di far pare conosciate, e per conseguente aggiungere e menomar possiate a vostro piacere, con poche parole ve l'intendo dimostrare. Se io ho ben riguardato oggi alle maniere da Pampinea tenute, egli le mi pare avere parimente laudevoli e dilettevoli conosciute, e perciò, infino a tanto che elle o per troppa continuanza o per altra cagione non ci divenisser noiose, quelle non giudico da mutare. Dato adunque ordine a quello che abbiamo già a fare cominciato, quinci levatici, alquanto n'andrem sollazzando, e come il sole sarà per andar sotto, ceneremo per lo fresco, e dopo alcune canzonette ed altri sollazzi sarà ben fatto l'andarsi a dormire. Domattina, per lo fresco levatici, similmente in alcuna parte ne andremo sollazzando, come a ciascuno sarà più a grado di fare, e come oggi ha ben fatto. Così all'ora debita torneremo a mangiare, balleremo, ed a dormire levatici, come oggi stati siamo, qui al novellare torneremo, nel quale mi par grandissima parte di piacere ed utilità similmente consistere. È il vero che quello che Pampinea non poté fare per l'esser tardi eletta al reggimento, io il voglio cominciare a fare, cioè a ristringere dentro ad alcun termine quello di che dobbiamo novellare e davanti mostrarlovi, a ciò che ciascuno abbia spazio di poter pensare ad alcuna bella novella sopra la data proposta contare. La quale, quando questo vi piaccia, sia questa, che con ciò sia cosa che dal principio del mondo gli uomini siano stati da diversi casi della fortuna menati e saranno infino alla fine, ciascuno debba dire sopra questo. Chi da diverse cose infestato sia oltre la sua speranza riuscito a lieto fine. Le donne e gli uomini parimente tutti questo ordine commendarono e quello dissero da seguire. Dioneo solamente, tutti gli altri tacendo già, disse: Madonna, come tutti questi altri hanno detto, così dico io, sommamente, essere piacevole e commendabile l'ordine dato da voi. Ma di special grazia vi cheggio un dono, il quale voglio che mi sia confermato per infino a tanto che la nostra compagnia durerà. Il quale è questo, che io a questa legge non sia costretto di dover dire novella secondo la proposta data, se io non vorrò, ma qual più di dire mi piacerà. E da ciò che alcun non creda che io questa grazia voglia, sì come uomo che delle novelle non abbia le mani, infino da ora son contento d'essere sempre l'ultimo che ragioni. La reina, la quale lui sollazevole uomo e festevole conoscea, e ottimamente s'avvisò, questo lui non chieder se non per dovere la brigata, se stanca fosse del ragionare, rallegrare con alcuna novella da ridere. Col consentimento degli altri, lietamente la grazia gli fece. E da seder levatasi verso un rivo d'acqua chiarissima, il quale d'una montagnetta discendeva in una valle ombrosa da molti alberi, tra vive pietre e verdi erbette con lento passo se ne andarono. Quivi, scalze con le braccia nude per l'acqua andando, cominciarono a prendere vari diletti tra sé medesime. Ed appressandosi l'ora della cena, verso il palagio tornatesi, con diletto cenarono. Dopo la qual cena, fatti venire gli strumenti, comandò la reina che una danza fosse presa, e quella menando la lauretta, Emilia cantasse una canzone, dall'euto di Dioneo aiutata. Per lo qual comandamento Lauretta prestamente prese una danza, e quella menò, cantando Emilia la seguente canzone amorosamente. Io son sì vaga della mia bellezza, che d'altro amor già mai non curerò, né credo aver vaghezza. Io veggio in quello ogni ora ch'io mi specchio, quel ben che fa contento lo intelletto. Né accidente nuovo pensier vecchio mi può privar di sì caro diletto. Quale altro adunque piacevole oggetto potrei veder già mai che mi mettessi in cuor nuova vaghezza? Non fugge questo ben qualor disio di rimirarlo in mia consolazione, anzi si fa incontro a piacer mio tanto soave sentir che sermone dir non poria né prendere intenzione d'alcun mortal giammai che non ardesse di cotal vaghezza. Ed io che ciascuna ora più m'accendo, quanto più fissi tengo gli occhi in esso, tutta mi dono a lui, tutta mi rendo, gustando già di ciò che el m'ha promesso. E maggior gioia spero più da presso si fatta, che già mai simil non si sentì qui da vaghezza. Questa ballatetta finita, alla qual tutti lietamente avean risposto, ancor che alcuni molto alle parole di quella pensar facesse, dopo alcune altre carolette fatte, essendo già una particella della breve notte passata, piacque alla reina di dar fine alla prima giornata, e fatti torchi accender, comandò che ciascuno infino alla seguente mattina s'andasse a riposare, perché ciascuno, alla sua camera tornatosi, così fece. Fine della chiusa della prima giornata. Fine di Il Decameron, parte prima, giornata prima, di Giovanni Boccaccio.